304. Scaloppine alla genovese. Formate braccioline con carne magra di vitella e, dato che sia grammi 500 senza osso, tritate un quarto di cipolla di mezzana grandezza e mettetela nel fondo di una cazzaruola con olio e un pezzetto di burro. Distendete sul battuto le braccioline, uno strato sopra l'altro. Conditele con sale e pepe e mettetele al fuoco senza toccarle, che così attaccandosi insieme non si aggrinzano. Quando avrà preso colore, la parte di sotto, versate un cucchiaino di farina e dopo poco un pizzico di prezzemolo e mezzo spicchio d'aglio tritati e due dita scarse di bicchiere di vino bianco buono, o mancando questo marsala. Poi distaccate le braccioline l'una dall'altra, mescolate, lasciatele tirar l'umido, indi versate acqua calda e un poco di sugo di pomodoro o conserva. Fatele bollire adagio e non molto per terminare di cuocerle, e servitele con intinto abbondante e con fette di pane arrostito sotto, oppure, se più vi piace, con un contorno di riso cotto nell'acqua, tirato asciutto e condito leggermente con burro parmigiano e l'intinto medesimo. Anzi, il riso ci sta molto bene e così piacciono a tutti.